Bentornati e bentornate su Slick Chick, ovviamente Radio Wombat o Wombat Radio, come preferite. Oggi è mercoledì 6 settembre, prima puntata di questo mese, e sì, in effetti quella della fine dell'agosto scorsa l'ho zompata, ma d'altra parte avevo altre cose, non potevo farla, e vi beccate invece dopo questa settimana di buco la puntata di oggi, che è una puntata forse più svegli di voi l'avranno capito, ma forse no, perché il nesso non era poi così immediato. È dedicata all'acqua. L'acqua è portataci in questo primo brano da Ludovico Einaudi con Waterways, ovvero corsi d'acqua. Trovo effettivamente incredibile che ancora non avessi passato su questa radio Einaudi, e quindi eccolo, ve lo siete beccato. L'album era In a Time Lapse del 2013, appunto il brano Waterways, come vi dicevo. E sì, parleremo d'acqua, acqua interpretata e disegnata e rappresentata in vari modi. Molti ne vedono qualcosa di liberatorio, di rigenerante, di simbolo di una nuova vita, bla bla bla. Molti invece la vedono come una cosa tremenda, come qualcosa in cui morire o qualcosa che porta morte, come vedremo, soprattutto quando è inquinata e ci si sversano i rifiuti industriali. Insomma, l'acqua, nient'altro che acqua. Effettivamente, quando si parla di acqua, attraverso la musica potremo poi prendere mille direzioni, mille diramazioni, perché basti pensare a tutti quei brani che parlano di fiumi e già potremmo fare 7 puntate di Slick Chick, oppure del mare, anche soltanto il mare, gli oceani, ma anche i laghi in realtà. In questa puntata ho cercato di invece concentrarmi proprio sull'acqua, l'elemento in sé, e anche se poi però in effetti qualche deriva sui fiumi me la sono concessa. E proseguiamo però subito appunto proprio con l'acqua, rimanendo sul generico, con PJ Harvey, che ha scritto diverse cose effettivamente dedicate o almeno ispirate dall'acqua. E quella che ho scelto è tratta dal primo disco di PJ Harvey, Dry, del 1992, un po' il più grezzo, che a me però piace. E il pezzo si intitola Water, semplicemente, e come spesso succede con PJ Harvey, non solo con lei, lo vedremo poi nel corso della scaletta, è un brano pieno di riferimenti biblici. D'altra parte, quando si parla d'acqua, non è che si può esimersi da almeno pensarci. Quindi, Water, PJ Harvey. Turn. Water di PJ Harvey, appunto, e queste erano delle acque non so se particolarmente pulite, ma quantomeno ci si immergeva, ci si poteva immergersi a proprio rischio e pericolo, a seconda di cosa vi piace. Ma invece parliamo adesso di acque dove, ecco, effettivamente immergersi è ancora più rischioso, perché parliamo di un brano degli Standards che si intitola Dirty Water, acqua sporca, dall'album omonimo Dirty Water del 1966. E questo pezzo racconta, lo sentirete, delle pestilenziali acque inquinate dei due fiumi di Boston, il Boston Harbor e Charles River. Poi in realtà non si ferma solo a quello, diciamo che il fiume, l'inquinamento, le acque sporche sono un po' un escamotage, per poi parlare in generale, dell'esperienza che si ha passeggiando per le vie di Boston, almeno che si aveva nel 66, quindi un incontro con un borseggiatore, la frustrazione, uno strangolatore di Boston e tante altre attrazioni che si potevano trovare in quella città, almeno in quegli anni. Tra l'altro, però, ne esiste una versione più recente di questo pezzo, anche dei Dropkick Murphys, tanto per ribadire che probabilmente certe cose negli anni non cambiano e quindi non ci si riferisce soltanto al 66, ma probabilmente l'acqua sporca c'è ancora adesso e forse anzi, ma chissà. Quindi, Dirty Water, The Standards. Tell your story. I'm gonna tell you about my town. I'm gonna tell you a big fat story, baby. It's all about my town. Yeah, down by the river, down by the banks of the River Charles. That's what's happening, baby. That's where you'll find me. Ecco, e dopo queste pirule che rovinano sempre tutto, vi posso dire che questi erano i Dinosaurs Junior con Water, appunto anche qui siamo sul didascalico. L'album era Green Mind del 1991. E proseguendo sempre sull'acqua, e questa volta torniamo a parlare di acqua non proprio edificante, acque scure, non pulite e limpide, arriviamo ai Dalek con Stagnant Waters. I Dalek sono un gruppo hip hop del New Jersey, forse conoscerete, forse no, non so. Sono nati nella scena DIY a fine degli anni 90, diciamo più o meno, e poi si sono un po' persi, poi si sono ripresi, insomma a tutt'oggi continuano a produrre cose. Non a caso hanno pubblicato con l'etichetta di Mike Patton, perché sono piuttosto anomali, diciamo, deviano, come dire, dall'hip hop canonico a cui siamo abituati almeno qui in Italia, anche se in realtà si rifanno anche moltissimo allo spirito sperimentale dell'hip hop, quello originale, un po' rumoristico, un po' elettronico, suonato, eccetera. Insomma, sentiteveli Dalek con Stagnant Waters. Sunrise from a distance defines what we're missing. per essere stagnanti queste acque, lo erano un bel po', Stagnant Waters appunto di Dalek. Non l'avevo detto, sì, non mi ricordo più, comunque l'album era Abandoned Language del 2007, sì, l'avevo detto, vabbè, lo risentirete due volte. E prima di continuare e proseguire nella nostra scaletta, siamo più o meno verso metà, ma insomma il bello deve ancora venire, diciamo così, vi volevo un po' leggere gli appuntamenti di questa settimana che, essendo iniziato l'autunno, ricominciano a essere numerosi, siamo partiti a bomba direi, un po' di appuntamenti non solo da Firenze ma anche dai dintorni, diciamo così. Partiamo con venerdì 8 settembre, dove alla Pescaia di Santa Rosa a Firenze c'è la festa di fine estate, benefit per le spese legali dei Tosellini, cioè del processo che ci sarà dopo lo sgombero dello spazio occupato di via Toselli. Quindi festa di fine estate, benefit per loro, è importante esserci dalle 17:30 in poi, live painting e hip hop con un sacco di gente a rappare che non vi sto a leggere perché sono tantissimi, e a seguire OTK Crew. E poi invece, non a Firenze ma ci spostiamo un po' a Prato, non tanto lontano però, Santa Valvola Fest, inizia questo festival del Santa Valvola, un'etichetta DIY, della scena DIY hardcore affini dei dintorni di Prato, e questo festival dura sia venerdì che sabato che domenica, quindi sia l'8, il 9 che il 10. Parte con il primo appuntamento proprio venerdì 8 e i gruppi che ci sono, non vi ho detto dove, a Prato sì, ma a Tobbiana in particolare, in provincia di Prato, e all'Orto Sonoro. E i gruppi che si alterneranno dalle 18 fino, attenzione, a mezzanotte, quindi non arrivate tardi come sempre, perché poi non trovate niente. I gruppi sono Delta Sleep, UK, dall'Inghilterra, Sex Pistols, Karl Marx Was a Broker, gli altri e i Low Wave. Questo per quanto riguarda venerdì 8 settembre. Invece il fine settimana prosegue ricchissimo, sabato 9 settembre, con un concerto al Next Emerson, sempre di Firenze, e questa volta si alterneranno sul palco i Bestial Vomit, Italian Grinders sparsi per il mondo, i Dragnet, Death Grind da Prato e Firenze, Butters, punk hardcore tra Lucca, Pisa, Pontedera, eccetera, gli In Vitro, o per meglio dire le In Vitro, Hardcore Sludge da Firenze, e poi di HK che sono dei peruviani che fanno di beat punk hardcore. Poi sempre per il secondo giorno di Santa Valvola Fest a Prato, appunto sempre all'Orto Sonoro di Tobbiana, Faz Orchestra, Zolle, Diabete, Guerra, Niet o Niet chissà, Mash e Paul Sintetico. Invece, un po' fuori la Toscana questa volta, ma ci preme dirlo, c'è anche sabato 9 settembre il corteo a Bologna per reclamare la BA dopo gli sgomberi che ci sono stati il mese scorso, i violenti sgomberi che avrete notato, penso un po' tutti, alla BA, cioè di la BA e di anche Laboratorio Crash. Insomma, a Bologna non si respira una bella aria, non solo acque stagnanti ma direi proprio acque putride, e quindi corteo a Bologna per la riappropriazione di La Ba, ma anche di tutti gli altri spazi liberati di Bologna, e parte alle 15 da piazza 20 settembre. Proseguiamo infine con domenica 10 settembre, che il Santa Valvola Fest ci accompagna con l'ultimo giorno del festival, con questa volta Godzilla, Canisherry, Bennett, la macabra moca, ti sciogli lingua, Tanks and Tears, We Melt Chocolate e Super Plastic. Quindi mi sembra di avervi detto tutto, vi ricordo che se volete segnalarci appuntamenti all'agenda del Wombat potete farlo scrivendo alla nostra mail postawombat@insiberia.net e già che ci sono vi ricordo anche il nostro sito che è wombat.noblogs.org. Proseguiamo quindi, una volta dato conto di tutti gli appuntamenti, o perlomeno quelli che ci sono arrivati, della settimana, e proseguiamo con, questa volta ricominciamo a parlare di un'acqua neutra, perlomeno non si dice esplicitamente che fa schifo, con If It's Water, gli Evans. The Evans sono il gruppo di Ian McKay, Ian McKay, la voce dei Manor Treat e dei Fugazi, eccetera, eccetera, e Amy Farina, la sua compagna, alla batteria e alla voce, Ian McKay invece chitarra e voce. L'album è l'omonimo di Evans del 2005. Da-da. ora invece ci ascoltiamo Muddy Water, ma attenzione perché di Muddy Water ce n'è un bel po'. Muddy Water infatti è uno standard che risale agli anni 20, sì, un bel po' in là, ed è stata composta da Joe Trent, Peter DeRose e Harry Richman, ed eseguita tra i primi, ben tantissimi l'hanno eseguita, però proprio per parlare tra i primi, dallo stesso Harry Richman e l'anno dopo invece da Bessie Smith, tanto per fare dei nomi un po' importanti, ecco. Muddy Water, però al plurale Waters, con la S finale, è anche ovviamente il nome di uno dei più famosi e meravigliosi bluesmen, ma è anche Muddy Water, senza S questa volta, è anche un'altra canzone, quella scritta nel 1973 da Phil Rosenthal, che è il cantante di Seldon Scene, un gruppo bluegrass americano. Ed è la cover di quest'ultima canzone, quella che vi faccio sentire, però nella versione di Nick Cave. Nick Cave and the Bad Seed, l'album è Kicking Against the Pricks del 1986. Mary, grab the baby, the river's rising. Muddy water, taking back the land. The old framed house can't take one more beating. Ain't no use to stay and make a stand. All our warning light shows water in the valley. Daddy's grave just went below the line. Things to say, you just can't take them with you. This flood will swallow all you've left behind. Won't be back to start all over. 'Cause what I felt before is gone. Man, take the child, the river's rising. Muddy water, taking back. Thank you. changing all I know. Lord, this muddy water is taking back my Ha ha ha! franti sul bordo dell'acqua, l'album era Ciò che ci rimane del 2001, non Ciò che ci rimane del 2001 nel senso che l'anno è andato, beh forse volendo anche sì, e in parte meglio così perché non è stata proprio una grande annata. Ma a parte questo, il filo che dagli affranti ci porta al prossimo pezzo è sottile ma abbastanza preciso, direi, perché qui parlavamo del bordo dell'acqua, di stare in bilico a tracciare o almeno osservare i propri confini e dissolverli poi magari nell'acqua. E adesso invece il prossimo pezzo ci parla delle tristi vicende di Jeff Buckley e suo padre Tim Buckley. Come penso saprete un po' tutti, Jeff Buckley era figlio appunto di Tim, il probabilmente anche più famoso cantautore Tim Buckley, e suo padre però Tim appunto lasciò la moglie prima ancora della nascita del figlio per andarsene a New York e diventare poi famoso. Beh sì, proprio è andata penso proprio ufficialmente così, non è che si tratta di grandi teorie. Da allora Jeff Buckley non vide praticamente mai più suo padre, perlomeno lo vide ma molto raramente, molto sporadicamente, perché suo padre lo respingeva esplicitamente. Nel 1975, quando Jeff Buckley era ancora piccolo, Tim Buckley morì per overdose e Jeff non fu voluto neanche al funerale, tanto per... soltanto 16 anni dopo, nel 91, Jeff Buckley arrivò a New York e un po' per caso probabilmente si ritrovò a partecipare al Greetings from Tim Buckley, che era una serata dedicata a suo padre nella chiesa di St. Anne a Brooklyn. Iniziò il suo tributo suonando con I Never Asked to Be Your Mountain, non ho mai chiesto di essere la vostra montagna, un pezzo devastante che Tim Buckley aveva composto per la moglie e suo figlio. Appunto, non ho mai chiesto di essere la vostra montagna, questa sola frase c'è tutto il vuoto possibile, penso. Jeff Buckley canta questo pezzo con la voce incrinata dalla rabbia, è un pezzo furioso che avrei davvero voluto farvi sentire, ma con i suoi 9 minuti mi era oggettivamente ostico. Ci sentiamo invece l'ultimo pezzo che Jeff Buckley eseguì a quel live, Once I Was, registrato dal vivo sempre in quella serata appunto. La registrazione è pessima e l'audio è distorto, lo sentirete, ma la voce di Jeff Buckley esce disperata ma tenace. A un certo punto si rompe una corda della chitarra e lui continua a cantare a cappella, ringraziando alla fine con un filo di voce. Quello fu l'addio di Jeff Buckley a suo padre. Poi, una sera di maggio, 6 anni dopo, Jeff Buckley era in giro su un furgone insieme al suo roadie e passarono davanti al Wolf River, che è un affluente del Mississippi, e lui chiese al roadie di fermarsi. Jeff Buckley si immerse nel fiume vestito, con tutte le scarpe, canticchiando pare What a Lot of Love dei Led Zeppelin e arrivando fino ai piloni dell'autostrada. Il corpo fu ripescato il mattino seguente, riconoscibile soltanto per la maglietta e il piercing all'ombelico. E questo è appunto Jeff Buckley che canta Once I Was di suo padre, per l'appunto. E subito dopo invece ci ascoltiamo il padre, questa volta Tim Buckley, con The River. Long time ago, when I was a little kid, my mom sat on a bed and she put this record on, and it's like the first song I ever heard that had my father's voice. I must have been 6, and I was bored. I was bored, I'm sorry. But you know, what do you expect from a cat that's like into Sesame Street at the time? Mm-hmm. Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, and I searched behind your eyes for you. Soon there'll come another to tell you I was just alive. And sometimes I wonder for a while, do you ever remember me? You have forgotten all of our rubbish dreams. I find myself searching through the ashes of our ruins for the days when we smiled and the hours that ran wild and the magic of our eyes and the silence of our world. Sometimes I wonder for a while, do you ever remember me? As beggars in the alley, faithless kings. Ah, but it's the truth of life that chains us in between. Those lost moments we steal to keep our love alive. And our pride so tired after all. I'm afraid in time we'll love, spezzare tutta questa tristezza. Adesso ci affidiamo invece alle sapienti mani di Handel, di Georg Friedrich Handel, proprio lui. E perché? Beh, non potevamo fare altrimenti, perché in effetti Handel ha scritto un qualcosa che con l'acqua c'entra profondamente, perché ha composto la Water Music. La storia è questa: Giorgio I, re d'Inghilterra, amava particolarmente le cavalcate in barca, così le chiamavano, che il barone Kilmansegg, chissà se si legge così, organizzava sul Tamigi. L'ambasciatore di Prussia, Bonnet, fece il racconto di una di queste passeggiate fluviali, raccontandola pressappoco così. Vicino alla barca del re si trovava quella dei musicisti, circa 50. Suonavano ogni tipo di strumenti, trombe, corni, oboi, fagotti, flauti traversi, violini e violoncelli, ma non c'erano cantanti. La musica era stata tutta composta per l'occasione dal celebre Handel, originario di Hall e principale compositore di corte di Sua Maestà, a cui la sua musica piacque talmente che la fece risuonare per 3 volte, sebbene ciascuna di queste esecuzioni durasse un'ora. E aggiungo io, cioè, con grande felicità immagino dei musicisti. Ed è per una di queste occasioni, appunto, che il 17 luglio del 1717 Handel compose la Water Music, ovvero tecnicamente HWV 348, fino alla 350, destinata ad accompagnare il re che risaliva il Tamici da Whitehall a Chelsea, dove aveva cenato da Lord Ranelagh, non so se si legge così, chissà, prima di ritornare al St. James Palace. La Water Music è divisa in 3 suite, i pezzi in ognuna delle suite non hanno un ordine definito. Durante l'esecuzione sul Tamigi i pezzi lenti e raccolti erano suonati quando la chiatta dell'orchestra e quella del re erano vicine, mentre invece la musica di carattere più allegro ed esuberante veniva suonata quando le due chiatte erano più separate. Questo movimento tecnicamente Handel l'ha classificato come allegro, quindi ci aiuta a riprenderci da tutta questa tristezza che Jeff e Tim Buckley ci avevano buttato addosso, e quindi ci ascoltiamo dal Water Music di Handel, la suite numero 1 in fa maggiore, appunto la HWV 348. Thank you. sul bordo del fiume senza me. Gola stretta nelle sue dita, voci lontane dietro le luci, voci, voci. Guardano me, mare fa segni su di me, pieghe fonde, gioco senza perché, volo di ieri, oggi è qua. Ma dove va? Stare Questi erano i Franti, li avrete riconosciuti con Acqua di Luna. L'album era Il Giardino delle 15 Pietre del 1986 e il titolo del disco rimanda a una leggenda del Giappone medievale secondo la quale a Kyoto esiste un giardino con 15 pietre, ma da qualsiasi punto lo si osserva se ne scorgono sempre e soltanto 14. Rimanendo vicino a Torino e continuando a parlare d'acqua, non posso non citare l'Acqualuce. L'Acqualuce è uno studio di registrazione che è stato la tana da cui sono usciti moltissimi dei dischi della variegata scena anni 80-90, ma ben oltre, insomma. Potrei citare un miliardo di dischi usciti di lì, di gruppi, Orsi Lucile, la banda di Tiro Fisso, i COV, Church of Violence, i Kina, i Mirafiori Kids, i CCN, CNCN, i Frammenti, i Crunch, i DDI, ma ce n'è 2000, i Rotten Brain, i Fichissimi, gli Arturo, i Panico, ma anche ovviamente in Negazione e sto cercando di guardare la variegata lista, ma ce n'è veramente 2000, in Orgasmo, i Kafka, i Perturbazione, anche insomma un po' tutto, i Bellicosi. Beh, direi sicuramente gran parte di quello che avete ascoltato è uscito in questi anni, è uscito dall'Acqualuce, o perlomeno gran parte di quello che ho ascoltato io, ecco. E per parlarvi dell'Acqualuce prendo lo spunto dal gruppo di Marco Milanesio, uno dei due fondatori dello studio Acqualuce, che il gruppo I Disordine, e vi faccio ascoltare Il Senso di Torpore, quindi da appunto I Disordine. Fondersi delle poche figure rimaste così vicine tra loro ti turba un poco, come il non poter essere anche tu in mezzo a loro. E quando pensi che stai solo per perderti, capisci a quante cazzate ci sono scritte anche solamente sul cartone del latte. Ed è venuto il momento di salutarci, siamo alla fine di questa puntata del 6 settembre di Slick Chick, sempre su Radio Wombat, vi ricordo, se foste distratti. E prima di lasciarvi e darci appuntamento a mercoledì prossimo, vi faccio ascoltare l'ultimo pezzo in scaletta, sempre parlando di acqua. Questa volta l'acqua non è nel titolo del brano, ma è nel nome del gruppo, perché ci ascoltiamo i Water Boys. I Water Boys dal primo album, fra l'altro, del proprio omonimo The Water Boys del 1983, che secondo me è l'unico bello dei Water Boys. Dopo hanno fatto veramente delle robe orribili. E sono un gruppo di provenienza scozzese, hanno poi però in realtà vissuto gran parte del tempo in Irlanda. Il nome dei Water Boys proviene da un verso di The Kids, che è una canzone contenuta nell'album Berlin di Lou Reed, quindi insomma un po' di rigiri. E il pezzo che ci ascoltiamo da questo primo album è Another Kind of Circus. I Water Boys poi in realtà ve li farò ascoltare anche più là, quando parleremo di androginia e simili, ma non vi anticiperò niente di più. Ci salutiamo quindi, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 9, sempre con Slick Chick e sempre su Wombat Radio. Ciao ciao! What we're doing.